Thank you.

sola. Perché tu fermi qui? Non serve nulla. Sì, delle lettere sue. Tu sapevi, lo conservate, è vero, gran tempo. Amare va da sarre, la riporrà tu. Oh, Ecol che gesta notte tu stai, la pianura percossa udirai, da un galoppo terribile. In sella, stretta a me, stretta a me, griderà la mia bella, ma il suo grido quel vento ne andrà. entrambi grazie